Ho portato alberi e colline nei deserti. Dimmi che ti piace, dimmi che ti piace. Qua dolci tu mari ti salato anche le coste. Dimmi che ti piace, che ne sei felice, lo so. Forse ho ceduto nei silenzi, ma perché la pace abbia la tua voce. E se mi ho intrecciato le fessure alle serrande, è perché la luce muove i tuoi riflessi. Ma di voi rimane.